Ed eccoci ancora una volta, carissimi, alle prese col santo curato d'Ars, e siamo giunti precisamente alla 71esima puntata, per cui ormai stiamo quasi per scrivere la parola fine. E vi dico subito che oggi dovremo concludere il capitolo che riguarda i fatti mistici della sua vita, capitolo che ci ha impegnati non poco, e poi, se avremo ancora un po' di tempo, inizieremo a narrare il suo ultimo anno di vita, a cavallo tra il 1858 e il 1859. Il 58 che è l'anno di Lourdes, e il 59 che è appunto l'anno in cui morirà nel mese di agosto. E l'argomento specifico di cui parleremo oggi è precisamente quello che riguarda i favori soprannaturali accordati al curato d'Ars, naturalmente oltre a tutti quelli di cui abbiamo già parlato. Favori soprannaturali che egli condivide con altri santi, con altri grandi santi, e che sono la caratteristica dei più grandi mistici. Beh, anzitutto dobbiamo dire che ebbe il dono delle lacrime, ne abbiamo già parlato. E questo dono ce l'ebbe a più riprese. Secondo Santa Teresa, le lacrime vengono sia da un sentimento di ineffabile tenerezza per Dio, sia dal martirio interiore in cui l'anima si consuma al pensiero delle offese che vengono fatte alla divinità. Difatti sappiamo che Don Vianney non parlava mai del peccato e del peccatore senza versare lacrime abbondanti. E quando faceva la Via Crucis, la sua parola si estingueva rotta dai singhiozzi. E spesso, anche quando distribuiva la Santa Comunione, le lacrime cadevano abbondanti sulla pianeta che indossava. E sappiamo che negli ultimi anni di vita non poteva mai tornare agli argomenti preferiti, cioè per esempio l'Eucaristia, la bontà e l'amore di Dio, le gioie del cielo, eccetera, senza essere interrotto dalle lacrime. E versava ancora lacrime davanti al più umile spettacolo della natura, se questo spettacolo parlava alla sua anima sensibilissima della bontà di Dio e del cuore indurito dei peccatori. Per esempio, in una omelia dei primi anni disse: «L'altro giorno, ritornando da Savigneux, intesi il canto degli uccelli e sentii venirmi le lacrime agli occhi. Pensavo, povere bestioline, il Signore vi ha creato per cantare e voi cantate, mentre l'uomo che è stato creato per amare Dio invece non lo ama». Ecco, ma carissimi, nella storia di molti santi vi è anche un altro fatto meraviglioso, vero? Che è precisamente quella che viene chiamata estasi ascensionale o levitazione. E due volte almeno Ars fu testimone di questo prodigio. Il lunedì di Pentecoste del 1849, 28 maggio, una fanciulla che si fece poi suora era venuta per consultare Don Vianney circa la sua vocazione. Ebbene, gli parlò in sacrestia e a una sua domanda lo vide congiungere le mani, alzare gli occhi al cielo e improvvisamente, così racconta la testimone, levarsi a quasi un piede di altezza. E ci dice la stessa testimone che rimase così quasi un quarto d'ora. E quando tornò coi piedi a terra, le fece una predizione di una meravigliosa chiarezza che si realizzerà poi in tutto e per tutto. Beh, un secondo fatto di levitazione è il seguente, così racconta un testimone, o una testimone, non sappiamo. Trovandomi un giorno ad Ars con mio fratello sacerdote, alla preghiera della sera mi collocai con lui davanti al pulpito. E quando Don Vianney giunse al lato di carità, mio fratello, che ha la vista molto buona, lo contemplò elevarsi, in modo che i suoi piedi stavano sopra l'orlo del pulpito, col viso trasfigurato e il capo circonfuso di luce. Mio fratello diede uno sguardo alla folla, ma nulla gli indicò che ci fosse emozione presso alcuno. In quel momento non disse nulla, ma appena fuori di chiesa non seppe mantenere il segreto su ciò a cui aveva assistito e lo raccontò a tutti con entusiasmo. E così prosegue il biografo commentando il fatto: si erano osservati in questo caso simultaneamente due fenomeni, primo la levitazione, secondo l'aureola, che è come un anticipato riflesso della vita dei beati che solo qualche volta risplende sui santi sulla terra, sui santi della terra. Beh, ora carissimi, sempre guidati per mano dal nostro biografo, oseremo penetrare più oltre nei misteri di Dio e per domandare se Don Vianney arrivò anche, sia pure gradatamente e attraverso numerose purificazioni, arrivò a quell'unione calma e duratura che si chiama unione trasformante e che sembra l'ultimo grado dell'unione mistica, nonché la preparazione immediata alla visione beatifica. Ecco, a questo proposito, noi sappiamo, carissimi, che l'estasi è solo una unione transitoria, vero, dell'anima con Dio. È, per così dire, il fidanzamento spirituale dell'anima con Dio. Ma oltre questa sappiamo che vi è l'unione trasformante, intima, serena e indissolubile, che nel linguaggio della mistica si conosce col nome di matrimonio spirituale. Ecco, questo è l'ultimo grado della vita mistica, nel quale l'unione con Dio è così profonda che l'anima si trova come trasformata. Dimentica ormai di sé per non pensare che la gloria di Dio. In questo caso è proprio Dio che si impadronisce dell'anima e delle sue facoltà. Bene. Lo studio della vita interiore di Don Vianney ci ha già dimostrato che la sua esistenza era diventata una continua preghiera, vero? Cioè una ininterrotta comunicazione con Dio. In uno dei sei catechismi, egli esclama: com'è bella l'unione dell'anima con nostro Signore. La vita interiore è un bagno d'amore nel quale l'anima si inebria. Dio tiene l'anima come una madre stringe il capo del suo bambino per coprirlo di carezze e di baci. E conclude: nostro Signore ha fame di quest'anima. Bene, queste parole sfuggitegli spontaneamente non sono forse, carissimi, la descrizione migliore della sua anima, abituata alle operazioni divine dell'unione trasformante? E come già sapete, un giorno aveva detto: vorrei perdermi per non ritrovarmi se non in Dio. Ed ecco che il suo ambito desiderio era stato effettivamente realizzato, dato che la sapienza eterna aveva sposato la sua anima. Facciamo una piccola pausa musicale, poi continueremo a parlare ancora di questo argomento. Beh, a questo punto, carissimi, noi ci chiediamo, Dio non lascia qualche pegno, qualche segno, qualche indicazione di questo matrimonio mistico? E la risposta affermativa, nel caso di Don Vianney, sembra avere come appoggio un fatto reale, narrato in una lettera, che un'anima buona ha indirizzato a uno dei primi successori del santo ed è conservata nella canonica di Ars. Sentiamo allora il contenuto di questa lettera. Signor Parroco, mi faccio un dovere di informarvi che trovandomi ad Ars il 2 luglio 56 e non avendo potuto indirizzarmi al santo in confessione, data la moltitudine di pellegrini che stavano attorno al suo confessionale, decisi di portarmi ai suoi piedi per implorare la sua benedizione. Giunta davanti a questa amabile creatura, tentai di afferrare la sua mano per baciarla rispettosamente, ma egli la ritirò dicendomi, con tono grave e benigno nello stesso tempo: «Oh, non prendetemi il mio anello!» In quel momento io vidi distintamente quello che non avevo visto fino allora. Cioè vidi che vi era al quarto dito della mano sinistra un anello d'oro di lucentezza straordinaria. E la lettera si conclude con questo commento: aveva quindi ricevuto, poiché ne era degno, l'insigne favore di cui erano stati favoriti molti altri santi. E il biografo commenta dicendo: l'autrice della lettera ha visto un anello che non fu scorto da nessun altro, ma del quale Don Vianney parla esplicitamente. L'illusione pare dunque impossibile. E così il curato d'Ars, onorato di questo spirituale matrimonio, entra a far parte della gloriosa schiera dei grandi mistici, e forse pensava appunto a queste gioie ineffabili gustate nell'intimità divina, quando, parlando con Don Toccanier, che gli chiedeva con insistenza circa i suoi rapporti con Dio e le consolazioni che ne riportava, si lasciò sfuggire questa confidenza pur tanto vaga, amico mio, vi è ben altro, vi è ben altra cosa. Allora qui, carissimi, voltiamo pagina e cominciamo a narrare l'ultimo anno della sua vita. E cominciamo a parlare della crescente fatica del curato d'Ars. Diciamo subito che nell'ultimo anno della sua vita il nostro santo vide passare nella chiesetta di Ars non meno di 100.000 pellegrini. E tutti avevano purtroppo il presentimento della sua prossima fine e accorrevano a lui anche per vederlo un'ultima volta, per sentire ancora una sua parola e possibilmente confessarsi da lui. Ma dobbiamo anche dire, carissimi, che egli, dato anche le sue condizioni di salute, non poteva bastare a tutto e a tutti. E si pensò quindi di mandare ad Ars alcuni missionari in suo aiuto. E attenti, l'affluenza era tale che molti di coloro che volevano confessarsi da lui a ogni costo dovettero attendere fino a 6 giorni per riuscire ad avvicinarlo solo pochi minuti. Eppure il santo, per soddisfare tutti, stava in confessionale fino a notte alta, pur avendo cominciato il suo lavoro qualche ora dopo la mezzanotte. E qui il biografo fa un'osservazione molto bella. Dice che egli era simile a un pilota che, temendo il naufragio, lavora di remi con tutte le forze e saluta da lontano il porto sospirato. E qui, carissimi, dobbiamo anche dire che i pellegrini, assetati di perdono e di pace, non sembravano accorgersi che col loro desiderio implacabile davano il colpo di grazia a quel povero vecchio prete, già sfinito da una vita di abnegazione e di incessanti fatiche, e ora vicino alla morte. Infatti possiamo dire che egli non si era mai concessa una mezz'ora intera di riposo vero e completo. E qui, attenti, è nel marzo del 59, precisamente 5 mesi prima della morte del santo, un giornalista visitò la sua chiesa e ne riportò le seguenti impressioni. Dice: il curato confessava: mi ero appena inginocchiato su un banco della chiesa quando sentii un singhiozzo che veniva dal suo confessionale e che si ripeteva ogni 10 minuti circa. Il giornalista si chiede: era un grido di sofferenza o un grido d'amor di Dio? E così risponde: la fatica strappava al petto oppresso di Don Vianney quel lamento, che diventava poi come un grido di amore ed era come lo sforzo sensibile di un'anima oppressa dalle colpe degli uomini e desiderosa di aprirsi quel varco che l'avrebbe trasportata verso il cielo. E qui, carissimi, tornando a noi, dobbiamo dire che i suoi catechismi non erano ormai altro che una sequela di esclamazioni e terminavano inevitabilmente con lacrime silenziose. E inoltre era più che mai difficile comprendere le poche parole che pronunziava a stento, E per di più c'era ogni tanto il solito inconveniente di una tosse ostinata che sembrava un grido e che tradiva la sua sofferenza. Ma l'amore di Dio e l'ansia per la salvezza delle anime riuscivano ancora una volta a dominare la stanchezza. E qui, carissimi, va detto senz'altro che quella famosa tosse secca e straziante faceva pena a quanti lo udivano, per cui tutti lo compiangevano. Ma l'uomo di Dio si rammaricava solo del tempo che la tosse gli rubava. E negli ultimi tempi era ridotto a tale stato di debolezza che doveva bere un poco di latte ogni sera prima di coricarsi. E dobbiamo dire che fu questo il solo cambiamento introdotto nel suo regime abituale, e certi giorni non prendeva assolutamente nulla prima di quell'ora tarda. Facciamo un ultimo stacco, poi concluderemo la serata. E qui, carissimi, mi pare bello narrare questo fatto. Un giorno il curato entrò nella casa di Caterina Lassagne, vicino alla canonica, e disse: «Mia povera Caterina, non ne posso più». Risposta: «Fermatevi un momento, signor curato, vi farò scaldare un po' di latte». «No, non fate nulla, ho bisogno solo di un po' di riposo». E uscì per salire in camera sua. Caterina intanto aveva preparato una tazza di buon latte e si affrettò a portarglielo. Ma lo trovò sulle scale mentre già scendeva per andare in chiesa, rinunciando al riposo. Per cui Caterina si fece coraggio e insistette: «Signor curato, prendete questo latte, non potrete resistere fino a stasera». «No, no, non voglio niente». «Signor curato, bisogna prenderlo». A questo punto Don Vianney portò un dito alla fronte per indicarle il mal di testa e aggiunse: «Su, su, lasciatemi passare». «Signor curato, non me ne vado». Ma con gesto risoluto Don Vianney si era già aperta la strada e usciva senz'altro in cortile. Caterina lo seguì ostinata con la sua tazza di latte in mano. «Ma vi vedranno i pellegrini», scongiurava il curato. Beh, ebbe un bel resistere, ma infine dovette cedere. E quando fu sera, confessò candidamente alla sua inesorabile infermiera: «Caterina, credo che senza la vostra tazza di latte non sarei arrivato fino al termine della giornata». E qui, carissimi, è necessario dire che Don Toccanié, fin dal 1855, preoccupato del crescente lavoro, e che talvolta faceva dire al santo: «La testa mi si confonde», Don Toccanié gli aveva ottenuto a sua insaputa la dispensa dalla recita del breviario quotidiano. Ma egli comunque voleva recitarlo ugualmente, e continuò regolarmente quasi ogni giorno. Però dovette rinunciare in ogni caso all'abitudine tanto cara di dirlo in ginocchio, come aveva sempre fatto dall'epoca della sua ordinazione al suo diaconato. Per di più, oltre a tutte queste sofferenze, 9 mesi prima di morire, uscendo un giorno dalla Providence, cadde lungo le scale e si provocò una ferita alla gamba, e questa ferita, trascurata, si cambiò in ulcera e non guarì se non dopo lungo tempo. E qui, carissimi, parliamo ancora, prima di finire, di penitenze. Nonostante tutto, nonostante le pene che già sopportava, egli volle continuare a darsi la cosiddetta e tristemente famosa disciplina, che era, come già sapete, una vera e propria forma di autoflagellazione. Ma poco mancò un giorno che non cadesse in deliquio, per cui era al desolato al pensiero di non poter più flagellarsi come prima. A tal proposito ascoltiamo il racconto di un suo parrocchiano, che era una specie di uomo di fiducia. Dice: «Alcuni giorni prima che morisse mi aveva dato una commissione per Lione, e quando stavo per partire mi incaricò di comperargli una catena lunga 2 piedi, un po' più grossa di quella di un orologio, dicendo: se non me la portate sarò costretto a servirmi di un'altra più ruvida che ho qui». Ed era precisamente quella che usava tutte le mattine. E qui, carissimi, mi pare molto giusta l'osservazione del biografo, il quale dice che non era più il tempo in cui poteva dire: «Ho un buon cadavere e quando ho preso un poco di cibo e dormito 2 ore posso cominciare di nuovo la mia giornata». No, quel tempo era passato. E ora, quando non ne poteva più, si accontentava di dire: «Riposeremo nell'altra vita». Ma il conte di Garé non cessava di raccomandargli: «Signor curato, dovete avere un po' più di riguardo per voi stesso». Ed egli rispondeva con un sorriso: «Oh, non importa, il buon Dio accomoderà ogni cosa». E qui, carissimi, dobbiamo ancora ricordare quel che si era già detto tempo fa, ma che ora era più che mai accentuato, che cioè passava le brevi notti voltandosi e rivoltandosi, madido di sudore, nel suo duro e piccolo giaciglio. E ogni mattina nessuno lo crederebbe, se non avessimo la testimonianza di fratello Atanasio. Ogni mattina faceva uno sforzo incredibile ad alzarsi prima dell'alba e sentiva forte ripugnanza a recarsi in chiesa a quell'ora, in quella chiesa dove ricominciava il suo penoso martirio, il suo penoso ministero. E diceva con un gemito: «Siamo sempre da capo». Ma attenti, nonostante l'insorgere spontaneo di queste ribellioni naturali, questo vecchio di 73 anni non si permise mai e poi mai di prolungare un riposo che non era tale. E ci offre così un altro meraviglioso esempio della sua incomparabile esistenza. Un giorno confessò candidamente: «Avevo sonno stamattina, ma non ho esitato ad alzarmi. La salvezza delle anime è una cosa molto importante». E già sfinito dalle fatiche, si recò al confessionale all'ora solita. Continueremo la prossima volta, Dio piacendo, vero? Ma comunque mi pare che ce ne sia già abbastanza per spaventarci, di fronte a tanto spirito di sacrificio e a tanto amore a Gesù e alle anime. Certo, è del tutto impossibile imitarlo, ma comunque è senz'altro possibile seguirlo in questa via dell'amore. Così abbiamo concluso, carissimi. Prima lettura dagli Atti degli Apostoli, capitolo 2, versetti da prima 14 e poi da 36 a 41. Nel giorno di Pentecoste Pietro, levatosi in piedi con gli altri 11, parlò a voce alta così: «Sappia con certezza tutta la casa di Israele che Dio ha costituito il Signore e Cristo, quel Gesù che voi avete crocifisso». All'udire tutto questo, si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?» E Pietro disse: «Pentitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei vostri peccati. Dopo riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa, e per i vostri figli, e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». Con molte altre parole li scongiurava e li esortava: «Salvatevi da questa generazione perversa». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati, e quel giorno si unirono a loro circa 3.000 persone. Parola di Dio. Ecco, ricordiamo che il ritornello del Salmo è il seguente: «Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla». Ecco, naturalmente si tratta del Salmo 22. Adesso passiamo alla prima lettera di San Pietro Apostolo, capitolo 2, versetti da 20 a 25. Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo: «Carissimi, se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, poiché anche Cristo patì per voi, lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme. Egli non commise peccato e non si trovò inganno sulla sua bocca. Quando era oltraggiato non rispondeva con oltraggi, e soffrendo non minacciava vendetta, ma rimetteva la sua causa a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri peccati sul suo corpo, sul legno della croce, perché non vivendo più per il peccato vivessimo per la giustizia. Dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle vostre anime». Parola di Dio. Alleluia, alleluia, io sono il buon pastore, dice il Signore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. Alleluia. Ecco, adesso allora passiamo, carissimi, al Vangelo del buon pastore. Come sapete, questo brano evangelico, che è il capitolo decimo del Vangelo secondo Giovanni, è un po' lungo. E allora, avendo a disposizione 3 anni, l'anno A, l'anno B e l'anno C, è stato diviso in 3 parti. Noi leggeremo appunto il primo pezzetto di questo discorso famoso sul buon pastore, da capitolo decimo, dal verso 1 al verso 10. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: in verità vi dico, chi non entra nel recinto delle pecore per la porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra per la porta è il pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce. Egli chiama le sue pecore una per una e le conduce fuori. E quando ha condotto fuori tutte le sue pecore, cammina innanzi a loro, e le pecore lo seguono, perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono che cosa significava ciò che diceva loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me sono ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra attraverso di me, sarà salvo. Entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Parola del Signore. Facciamo un attimo di pausa silenziosa per meditare su quanto abbiamo ascoltato, e poi inizierà un breve commento. Torno a te. Io mi getto in te, Signore, stretto fra le braccia tue. Questa domenica, quarta di Pasqua e terza dopo Pasqua, come sapete, come abbiamo già detto, viene chiamata la Domenica del Buon Pastore e corrisponde sempre alla giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, che quest'anno è giunta già alla sua 33ª edizione. Beh, prima fermiamoci un attimo sulla figura del Buon Pastore. Il Buon Pastore è Cristo, naturalmente, lo diremo poi dopo in modo più chiaro. Ecco, però chiediamoci subito, chi è il Buon Pastore oltre a Cristo? E cosa rappresenta il buon pastore? E quali sono le doti che deve avere il buon pastore? Beh, una prima risposta ce la dà Gesù stesso, il quale dice che il pastore, quello vero, non è il mercenario. Dunque non è uno che si avvicina al gregge per una pura ragione di interesse personale, di tornaconto personale. Eh no. Ma piuttosto si avvicina al gregge, direi, per un incarico ricevuto, compiendo la sua missione con molto impegno e anche con sacrificio personale. Difatti il buon pastore è identificato con colui che dà la vita per il gregge. E quando viene il lupo non scappa, ma affronta il pericolo per amore del gregge, quel gregge che gli è stato appunto affidato. E oggi, come avete sentito, Gesù completa l'immagine dicendo che il buon pastore non è il ladro o il brigante, i quali entrano nel recinto delle pecore per una porta secondaria, cioè di soppiato, di nascosto, e vengono solo per rubare, uccidere e distruggere. Ma a quanto pare costoro non incontrano il favore delle pecore, no, le quali pecore, non conoscendo la loro voce, fuggono da loro, avendo capito che sono solo dei disturbatori che vengono per dei secondi fini, anche se magari si presentano elegantemente con camicia bianca e cravatta sgargiante. Invece il buon pastore entra nel recinto per la porta principale, cioè alla luce del sole, e le pecore gradiscono la sua visita, gradiscono la sua voce, perché la conoscono, per cui lo seguono docili e fiduciose. Sapendo bene che a seguire il buon pastore non si sbaglia mai, ma c'è solo da guadagnare, nulla da perdere. Ecco, dice Gesù, il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Io invece sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco carissimi, potrei completare queste note sul buon pastore, queste note che ci fornisce Gesù stesso, con quelle di San Paolo. Quando dice, per esempio, potreste avere anche 10.000 pedagoghi in Cristo, ma non certo molti padri, perché sono io che vi ho generato in Cristo mediante il Vangelo. Ecco, 1 Corinzi 4,15. Dunque il buon pastore, secondo questa espressione di San Paolo, non è semplicemente un predicatore, sia pure un buon predicatore, ma è un padre. E padre è molto più di predicatore, vero? Padre è colui che ti ha generato ed è colui che ti mantiene, soprattutto colui che ti ama e sul quale puoi sempre contare. E San Paolo, come avete sentito, difende questa sua prerogativa di padre, no? Davanti ai cosiddetti superapostoli, i quali si presentano con splendide parole da incantare l'uditorio, ma poi tutto finisce lì, non avendo la dote principale che deve avere l'apostolo, che è appunto l'amore, l'amore al gregge, l'amore alle anime. Per cui San Paolo dice, io ritengo di non essere per nulla inferiore a questi superapostoli, a questi supermen, e se anche sono un profano nell'arte del parlare, non lo sono però nella dottrina, come vi abbiamo dimostrato in tutto e per tutto e davanti a tutti. Ecco, 2 Corinzi 11,5. Ecco dunque il buon pastore, carissimi, una persona anzitutto incaricata dall'alto di pascere il gregge, che quindi compie questa missione con autorità e disinteresse personale, nonché spesso con abnegazione personale. Ma guardate che dicendo autorità non dobbiamo intendere autoritarismo, vero? Perché l'autoritarismo è la deformazione dell'autorità, dato che la vera autorità è soprattutto basata sull'amore. Mi chiedo, perché il gregge segue il buon pastore e obbedisce docile ai suoi comandi? Beh, certamente perché scorge nel buon pastore, scorge il vero amore, che vuole il bene del gregge e lo promuove in tutti i modi, anche con sacrificio personale. E vorrei fermarmi un attimo anche su questo rapporto di conoscenza fra pastore e gregge. Il gregge conosce la voce del pastore. Il pastore conosce le pecore una per una e le chiama per nome una per una. E come sapete nella Bibbia dire conoscenza equivale a dire amore. Questo nella Bibbia lo si dice subito, fin dall'inizio, no? Adamo conobbe Eva ed Eva concepì e partorì un figlio. Ecco la conoscenza, è un atto d'amore. Dunque questa conoscenza fra pastore e pecora è una conoscenza di tipo particolare, ossia una conoscenza non superficiale ma profonda, che si preoccupa non solo della buona salute fisica delle singole pecore, ma soprattutto si occupa della loro buona salute spirituale, morale. E perciò davanti a uno sbandamento morale e a un abbandono della fede si sente lacerare il cuore, il pastore. E cosa non farebbe il pastore pur di riportare la singola pecora perduta all'ovile, al sicuro nell'ovile? Come sapete Gesù ha espresso questa verità nel modo più alto, più sublime, con la famosissima parabola, no, della pecorella smarrita, dove il protagonista è appunto un pastore che, avendo perso una pecorella su 100 che possiede, lascia le altre 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova. E ritrovatela, se la mette in spalla tutto contento, va a casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me, perché ho ritrovato la mia pecora che era perduta. Ecco, Luca 15, 4, 6. Dunque, come ho detto, l'amore del buon pastore non è un amore superficiale, è tipo, non so, tipo quello del divo per i suoi fans o viceversa, ma è un amore profondo, che si preoccupa profondamente del bene di ogni singola pecora, fino a sacrificarsi per lei, pur di vederla libera e salva. Ed ecco allora, carissimi, che a questo punto noi dobbiamo fare delle applicazioni, vero, di questo discorso che abbiamo fatto. Beh, la prima applicazione è chiarissima. Il buon pastore è anzitutto Gesù. Per cui Gesù con questo discorso parla anzitutto di se stesso. Egli è qui, e dunque il prototipo del buon pastore, e ogni buon pastore umano, se vuole essere tale, deve assomigliare a lui. E allora mi chiedo, perché si celebra la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni proprio oggi, cioè proprio in corrispondenza con questo brano evangelico? Mi pare evidentissimo. Perché Cristo, buon pastore, è il modello di ogni vocazione e ogni vocazione per realizzarsi deve confrontarsi con Cristo, buon pastore. E qui, badate, naturalmente non si parla solo di vocazione sacerdotale o vocazione religiosa, ma si parla per esempio anche di vocazione alla paternità, alla maternità e comunque di qualsiasi altro tipo di vocazione che può esistere. E prima della vocazione alla paternità e alla maternità c'è la vocazione matrimoniale, no? Però questo vale anche per chi non è sposato, oltre che per chi non ha figli. Ecco, costoro non credono di non avere una vocazione. No, perché per il fatto stesso che Dio ci ha creati e ci ha voluto su questa terra, vuol dire per ciò stesso che ci ha dato anche una vocazione. Che poi, come sapete, vocazione vuol dire chiamata, vero? Chiamata a servire Dio e i fratelli, o meglio, a servire Dio nei fratelli. Eh sì, perché le due cose sono imprescindibili. Anche se il primato assoluto va dato sempre alla prima cosa, cioè appunto al servizio di Dio. Noi siamo venuti al mondo anzitutto per conoscere, amare e servire Dio. Però in pratica questo servizio di Dio si concretizza nel servizio dei fratelli, di solito. E guardate che quando si dice che siamo nati anzitutto per conoscere Dio, questo significa pure che dobbiamo sforzarci per conoscere la sua volontà nei nostri riguardi, per conoscere appunto la nostra vocazione. E cosa vuole il Signore da me personalmente? Come devo servirlo? Come devo servire i fratelli? E quali fratelli in modo particolare devo servire? Ecco, tutte domande a cui non è possibile rispondere senza un'illuminazione dall'alto e perciò senza preghiera. E non dimentichiamo che oggi è anzitutto giornata di preghiera, oltre che di riflessione. Anzi, è giornata di riflessione nella preghiera, perché è pregando che si riflette. Cioè sapendo creare un clima di silenzio, di ascolto della voce di Dio che ti parla. Meglio, che ti vorrebbe parlare, ma in genere purtroppo trova sempre il frastuono, per cui si vede continuamente costretto a tornare alla carica. E badiamo, carissimi, a non farlo attendere troppo, perché potrebbe anche stancarsi e non tornare più un'altra volta. Sia dunque questa una giornata di preghiera e di raccoglimento per comprendere sempre meglio la nostra vocazione e così poterla sempre meglio attuare nella vita. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.